tutto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. È stato fermato per omicidio con l'aggravante razziale l'uomo che ha ucciso un richiedente asilo nigeriano sfuggito a Boko Haram. Aveva reagito ad un insulto razzista, appunto. Negli Stati Uniti torna alto lo scontro sulle violenze dei poliziotti nei confronti degli afroamericani. Due neri uccisi. Intanto una bambina di 3 anni che ha trovato in casa una pistola, giocandoci, si è uccisa. La Consob ha deciso di vietare le vendite allo scoperto su Monte dei Paschi per i prossimi 3 mesi. Banche ancora giù in borsa. Nuovo attentato questa mattina in Bangladesh. 2 agenti morti. Attendibile la rivendicazione dell'ISIS per l'attacco di Dhaka, dice il ministro Gentiloni. Volevano far Gomorra in provincia di Pavia, 24 arresti tra i reati, il traffico d'armi e l'estorsione, avevano anche postato un rap su YouTube. Decisione arrivata, a Firenze dice no al McDonald's in piazza Duomo, manca il rispetto della regola del cibo autoctono, salta un investimento da 10 milioni di euro. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono i soliti, 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp. C'è anche il nostro canale Telegram nel quale potete trovare le anticipazioni della trasmissione prima di andare in onda, telegram.me/effettogiorno. In apertura dunque ci occupiamo dell'omicidio dell'uomo nigeriano che aveva reagito ad un insulto razzista. Marta Cagnola, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Questa mattina fermo il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato dal prefetto Mara Di Lullo dopo l'aggressione costata appunto la vita al richiedente asilo nigeriano Emmanuel Shidi Nnamdi. C'era il ministro dell'Interno Angelino Alfano con i vertici delle forze di polizia. Le indagini sull'omicidio non hanno chiarito ancora tutte le modalità di quello che è successo, ha detto Alfano. Andranno ulteriormente approfondite, ci stanno lavorando la procura e le forze di polizia giudiziaria. Speriamo di avere a breve, ha detto, una risposta chiara e concreta. L'uomo fermato per l'omicidio è accusato di omicidio preterintenzionale, aggravato dalla finalità razzista. L'aggravante, ha detto Alfano, dà la misura di come tutte le attività investigative svolte in queste ore siano andate nella direzione giusta, che è quella di un movente razziale. L'uomo fermato a 38 anni è proprietario di un'azienda zootecnica, era stato all'inizio denunciato a piede libero per lesioni dopo l'aggressione. L'accusato si è difeso dicendo di essere intervenuto perché aveva visto la coppia di nigeriani aggirarsi in modo sospetto intorno a delle auto. Don Vinicio Albanesi, che ospitava i rifugiati, ha annunciato che si costituirà parte civile, denunciando anche l'ambiente di estrema destra che gravita intorno alla tifoseria locale. Questa tifoseria locale per ora era stata protagonista solo di episodi violenti circoscritti nell'ambito calcistico, come degli scontri nell'aprile 2015 con la tifoseria Civitanovese all'interno di una pineta. La Fermana infatti è una squadra che milita nel campionato di Serie D. A gennaio Don Vinicio aveva unito informalmente Emanuele e la compagna per mancanza di documenti, li aveva uniti in matrimonio in chiesa, ma questo matrimonio appunto non è mai stato registrato. Per questo la volontà della donna di donare gli organi del compagno non ha potuto trovar luogo, appunto perché non c'è nessuna registrazione del matrimonio. Infine, Don Vinicio Albanesi ha chiamato in causa per l'aggressione lo stesso giro delle bombe piazzate in questo periodo davanti alle chiese della zona, o quantomeno lo stesso clima culturale. Credono, ha detto Don Vinicio Albanesi, di appartenere alla razza ariana. Per ora questo è quello che si sa di ciò che è avvenuto. Fermo. Ti ringrazio, grazie a Marta Cagnola per questo aggiornamento. Rimaniamo in parte in tema perché negli Stati Uniti riesplode la polemica dopo l'ennesimo caso di un afroamericano ucciso da un agente. Ci sono due fatti, un fatto avvenuto in Minnesota solo 48 ore da un fatto analogo in Louisiana. In Minnesota la compagna dell'uomo che è stato ucciso dal poliziotto ha ripreso tutto e mandato in diretta su Facebook. Dunque iniziamo sentendo un passaggio. He had a firearm and he was reaching for his wallet and the officer just shot him in his arm. We're waiting for a backup. I will, sir. No worries. I will. Fuck! He just shot his arm off. We got pulled over on Larpiner. I told him not to reach for it. I told him to get his hand off it. You told him to get his ID, sir, and his driver's license. E la voce che avete sentito così nervosa era in realtà la voce del poliziotto, perché l'uomo appunto era sdraiato nella sua auto sanguinante. Un aggiornamento da Sergio Nava. Sergio. Sì, documento realmente impressionante, soprattutto la tensione che emerge dal tono concitatissimo del poliziotto, mentre la donna è molto molto fredda, riesce a rimanere fredda e a raccontare tutto quello che è avvenuto, perché come dicevi Simone è tornata di estrema attualità negli Stati Uniti la questione razziale. Il fatto è avvenuto appunto in Minnesota e nello specifico il poliziotto che avete ascoltato ha sparato 4 colpi d'arma da fuoco contro Philando Castile di 32 anni dopo averlo fermato a bordo di un'automobile, insieme a lui la donna che avete ascoltato e anche un bambino. Proprio la donna ha documentato con la videocamera l'intera sequenza, ha raccontato che Castile, che morirà poi in ospedale, era stato freddato con 4 colpi d'arma da fuoco mentre si accingeva a prendere i documenti, come tra l'altro chiesto dalla gente. Castile aveva appena informato però i poliziotti, che lo avevano fermato per una luce posteriore rotta, di essere in possesso di un'arma regolarmente dichiarata. Non è dunque da escludere che la gente abbia fatto fuoco temendo poi di venire colpito. L'episodio è avvenuto, lo ricordavi, nel pieno delle proteste per la morte di Alton Sterling, l'afroamericano ucciso mentre veniva trattenuto a terra da 2 poliziotti a Baton Rouge in Louisiana, in questo caso profondo sudamericano. Centinaia di persone hanno manifestato per 2 notti di seguito per chiedere giustizia al grido delle vite degli uomini di colore sono importanti. È tutto. Ti ringrazio, grazie Sergio Nava. Di questi temi ovviamente torneremo a parlare anche in America 24 a partire dalle 13:45. Siamo all'Italia, iniziando dalle questioni delle banche. Giornata negativa oggi per quanto riguarda appunto i titoli delle banche sui mercati, in particolare Banco Popolare che cede il 4,7%, Popolare Emilia Romagna il 2% e ancora Monte dei Paschi che cede l'1,92% in un quadro complessivamente positivo per i mercati. Proseguono nel frattempo le trattative con Bruxelles. Oggi si riunisce il Consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi. Sul tavolo la lettera della BCE che chiede all'istituto di cedere 10 miliardi di crediti deteriorati in 3 anni, il doppio rispetto a quanto previsto nel piano. Sul mercato i prestiti in default verranno ovviamente venduti a sconto e alla banca per coprire le perdite serviranno, secondo i calcoli, 3 miliardi di euro. Soldi che il governo italiano è pronto a garantire, ma la direttiva sul bail-in prevede che a farsi carico delle perdite siano azionisti, obbligazionisti e depositanti. E l'Italia deve rispettare le regole, ribadisce il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem. Renzi però vuole evitare quanto successo con l'Etruria. Il governo trovi una soluzione. L'appello del sindaco di Siena, Bruno Valentini. Non possiamo permetterci una crisi analoga a quella avvenuta con la Banca Popolare dell'Etruria e le altre 3 piccole banche. Monte dei Paschi è talmente grande che non ci si può permettere di lasciarlo solo al suo destino senza capire che ci vogliono dare una lezione da Bruxelles e da Francoforte, da cui escirebbe con l'osse rotte il sistema economico del nostro paese. Ci vogliono misure straordinarie, perché la situazione è straordinaria. La soluzione potrebbe essere un rafforzamento preliminare garantito dallo Stato, previsto dall'Europa nel caso di esami da parte delle autorità, gli stress test appunto, i cui risultati arriveranno a fine mese. Parte però dei 5 miliardi di bond subordinati potrebbe essere convertita in azioni. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora economia, l'INPS ha presentato questa mattina il suo rapporto annuale. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Relazione annuale dell'INPS sullo stato di salute del sistema previdenziale. Il presidente Boeri interviene allora sulle recenti preoccupazioni sul bilancio dell'istituto. L'INPS opera per conto dello Stato, chiarisce Boeri. Le sue prestazioni verranno comunque erogate perché garantite dalle leggi. Altro capitolo, Simone, quello della flessibilità in uscita. Il confronto è in corso tra governo e sindacati. Un intervento che, se portato a termine, sarà positivo, fa capire il presidente dell'INPS. Sentiamo allora Boeri. Già lo scorso anno avevamo sottolineato l'importanza di stemperare con un intervento organico le rigidità imposte dalla legge 214 nel 2011, con il suo brusco innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi per percepire la prima pensione. È molto positivo dunque che il governo e le parti sociali siano in queste settimane al lavoro per individuare correttivi. Fondamentale che le misure che verranno alla fine adottate vengano spiegate a lavoratori e imprese, anche perché quelli all'ordine del giorno non appaiono del tutto prive di qualche complessità. Boeri interviene quindi sul mercato del lavoro. I numeri alla mano spiega che lo stop all'articolo 18 introdotto con il Jobs Act non ha portato a maggiori licenziamenti, anzi questi sono diminuiti nel 2015, dice Boeri, del 12% sull'anno precedente. Tendenza confermata dall'OCSE. Secondo l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, il Jobs Act è riuscito a scongiurare il rischio di effetti indesiderati a breve termine. È tutto. E grazie Vincenzo Miglietta. Di questa mattina anche i dati Istat sui consumi. Timidi segnali di ripresa per la spesa media delle famiglie italiane che nel 2015, rileva l'Istat, risale a circa 2.500 euro al mese, con un aumento dello 0,4% rispetto al 2014 e dell'1,1% rispetto al 2013. Cresce dell'1,2% la spesa alimentare, 441,50 euro. Il livello medio si arresta, in particolare il calo dei consumi di carne. In atto dal 2011 aumenta la spesa per frutta e verdura più 4,5 e più 4,2% rispettivamente. Più della metà delle famiglie italiane nel 2015 ha provato però a limitare le spese per il cibo, una su cinque anche quelle sanitarie. Abbigliamento e calzature le voci principali su cui si cerca di risparmiare. Dopo due anni di calo, cresce a due cifre più 11% la spesa degli italiani in alberghi e ristoranti, anche se sono ancora in molti a dover rinunciare a viaggi e vacanze, quasi una famiglia su due. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo alla politica in primo piano, ancora l'inchiesta che tocca in parte anche il ministro Alfano, che sta creando parecchi problemi alla maggioranza. Rischia di minare la stabilità del governo il caos nel nuovo centrodestra. Da un lato c'è la fronda interna che chiede di uscire dall'esecutivo. Sono almeno 8 i senatori centristi che spingono per ricostruire un'alleanza con Forza Italia e che sarebbero pronti a dare battaglia a Palazzo Madama, dove i numeri per la maggioranza sono in bilico. Dall'altro lato ci sono invece gli sviluppi dell'inchiesta sugli appalti, dalla quale, oltre al coinvolgimento del deputato centrista Marotta, sono emersi anche i nomi del padre e del fratello del leader di NCD, Angelino Alfano. Non sono indagati, ma stando ad alcune intercettazioni, si sarebbero rivolti alla cricca che controllava appalti e nomine per chiedere e ottenere assunzioni alle poste. Sotto pressione sui due fronti, il ministro dell'Interno tira dritto. Nessun passo indietro, non farò come Lupi, dice Alfano. Al suo fianco si schiera il Partito Democratico, preoccupato per la stabilità del governo. Le opposizioni, tranne Forza Italia, chiedono invece le sue dimissioni. Sul fronte delle indagini, nel frattempo, ieri sarebbero arrivate le prime ammissioni da parte di alcuni degli indagati nel corso degli interrogatori di garanzia che proseguiranno anche oggi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Altro fronte politico, quello della giunta Raggi, che oggi dovrebbe riunirsi. Giornata storica, twitta il primo sindaco donna e pentastellato di Roma, Virginia Raggi. Cittadini che riprendono in mano la loro città, scrive, dopo anni di abbandono della politica. Alle 15 si riunirà per la prima volta il Consiglio Comunale, uscito dalle urne, e la prima cittadina della capitale presenterà la squadra che governerà per i prossimi 5 anni. A poche ore dall'insediamento dell'Assemblea Capitolina, la giunta dovrebbe essere pronta. Ma non mancano le sorprese. Andrea Lo Cicero, rugbista e discusso assessore in pectore allo sport, dovrebbe svolgere le funzioni di ambasciatore dello sport, mentre l'assessorato dovrebbe andare al pentastellato Daniele Frongia. Niente assessorato ai trasporti per il pentastellato Enrico Stefano, ma delega a Linda Meleo, classe 1970, giovane ricercatrice dell'università online Uninettuno. Ieri il Movimento 5 Stelle ha annunciato di volersi sedere negli scranni di sinistra dell'aula Giulio Cesare, tradizionalmente occupati dal Partito Democratico, e oggi, poco prima dell'inizio della seduta consiliare, il gruppo PD si riunirà per affrontare la questione. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il ministro Gentiloni ha riferito questa mattina sull'attentato a Dacca. Le prime valutazioni nostre portano comunque a ritenere attendibili le rivendicazioni della strage fatte da Daesh. La mano dell'ISIS dietro la strage di Dacca, contrariamente a quanto sostenuto dalle autorità del Bangladesh, che insistono sulla pista di gruppi fondamentalisti locali legati all'opposizione interna. Il ministro Gentiloni parla nella sua informativa al Senato e conferma anche le modalità con cui sono stati uccisi 9 italiani, alcuni a colpi di arma da fuoco, altri con il machete, tutti dopo una lunga notte di orrore e agonia, così come ha rivelato l'autopsia. Dal Bangladesh intanto notizie di un nuovo attentato in cui hanno perso la vita 2 agenti di polizia, un commando armato entrato in azione durante una festa per la fine del Ramadan, un terrorismo al quale l'Italia deve rispondere unita e decisa. Quando uccidono 9 connazionali, l'Italia risponde unita. Poi anche un appello ai musulmani d'Italia. Chiedendo anche a voi di impegnarvi a viso aperto contro questi terroristi che abusano della vostra religione deturpandola. E intanto le salme dei nostri connazionali sono partite per le città di origine, dove tra oggi e domani si terranno i funerali. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Euro 2016, Portogallo prima finalista. Stasera tocca una superclassica, Francia-Germania. Carlo Genta, ciao. Ciao Simone, buongiorno a tutti. Sì, dunque il Portogallo è riuscito a vincere la sua prima partita di questo europeo nei 90 minuti regolamentari. Lo ha fatto grazie alla prima convincente partita di questo europeo della sua superstar Cristiano Ronaldo, che con un fantastico colpo di testa ha aperto le marcature, poi chiuse da Nani, e dunque Galles eliminato. Non dimentichiamo che Galles era la prima partecipazione, ha raggiunto una semifinale, ha fatto un europeo splendido. Ieri sera mancava un giocatore determinante, una delle due stelle gallesi, una Bale, e ha giocato molto bene, l'altra Ramsey, non c'era perché squalificato. Dunque Portogallo prima finalista. Stasera si conoscerà invece la finale di domenica di Saint-Denis. Francia-Germania, come dicevi tu prima, uno dei grandi classici, un grande classico dell'Europa calcistica, derby d'Europa se vogliamo. La Francia gioca in casa, la Germania ha delle assenze pesanti, non solo Khedira che si è fatto male contro l'Italia, ma anche Mario Gomez che ha subito lo stesso destino e che era un giocatore determinante nello scacchiere tattico di Löw. Partita molto interessante, questa molto carica di significati. Francia che è andata via via migliorando nel corso del torneo, trascinata dai gol di Griezmann, e dunque la aspettiamo questa sera alle 21. E grazie Carlo, ne parlerete ovviamente tanto della partita di ieri quanto di quella che arriverà stasera, in tutti convocati a partire dalle 14. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro consueto giro per l'Italia. Inizieremo da Vigevano, siamo in provincia di Pavia, dove c'è stata una maxi operazione. Sono state arrestate 24 persone, a quanto pare volevano imitare Gomorra, e quindi c'è il traffico d'armi, c'è le estorsioni, c'è anche un rap su YouTube, lo faremo ascoltare, e parleremo col sindaco, molti amministratori locali, perché parleremo anche col sindaco di Rimini Andrea Agnassi, perché ieri ci siamo occupati di questo problema degli scolmatoi che gettano l'acqua di fogna in mare, e Rimini sta cercando di risolvere il problema. Tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dell'omicidio, del fermo per omicidio dell'uomo che ha ucciso un richiedente asilo nigeriano. Abbiamo parlato degli Stati Uniti, dove si riesplode la polemica sugli atti dei poliziotti nei confronti degli afroamericani. Abbiamo parlato di banche, della Consob che ha deciso di vietare le vendite allo scoperto su MPS, dell'attentato a Dhaka. Abbiamo parlato anche di calcio, come avete sentito, di Euro 2016 e dell'altra semifinale in arrivo stasera. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e il primo punto sulla mappa lo mettiamo a Vigevano. Siamo in provincia di Pavia e siamo lì con il sindaco Andrea Sala. Buongiorno sindaco, benvenuto. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora iniziamo a sentire quest'audio, va? Ce l'abbiamo? No, aspetti, vediamo se ci abbiamo. No, per fare il grande, ma tanta gente di me c'ha paura. Non per fare il grande, ma Vigevano, tanta gente di me ha paura. E c'è anche un altro audio, via. Ascolta qui bastardo, senti bene la mia traccia. Lo senti questo flow, ogni bar è una minaccia. Quando parto con lo slang, sai che sputo merda in faccia. Altro che il tuo Mr. Grey, è normale che ti piaccia. Giro con la peggio gente che... Allora, tutto nasce con un'operazione di polizia avvenuta questa mattina, forse i carabinieri più probabilmente, e che riguarda una serie di arresti che sono avvenuti proprio tra Vigevano e i paesi intorno, insomma, diciamo nella provincia di Pavia. Una banda di 24 persone, o almeno 24 sono stati gli arresti, di persone che di fatto, lo dicono gli stessi inquirenti, volevano in qualche modo replicare Gomorra. C'è il traffico d'armi, c'è l'estorsione, incendi ai negozi e non solamente quello. Allora, sindaco, quando è arrivata questa notizia, vorrei capire un po' come si è sentito, come l'ha presa, se era qualcosa della quale aveva avuto percezione. Allora, sicuramente la notizia è stata abbastanza agghiacciante, nel senso che non si aveva una percezione diretta in città di questa situazione, perché in passato gli episodi hanno riguardato più che altro, non so, organizzazioni albanesi piuttosto che altro tipo, che sono state debellate a suo tempo. Qui si tratta tutto di italiani, e questo tipo di situazione, per come appunto viene esposta, è proprio un'organizzazione, diciamo, capillare, che agisce su più campi, sulla droga, sulle armi, un po' su tutto. È chiaro che è un effetto che sicuramente va su una parte di cittadinanza, perché quando si parla di estorsioni, danneggiamenti, incendi, vuol dire che ci sono delle intimidazioni, vuol dire che ci sono sicuramente delle situazioni dove vanno a toccare una parte della popolazione da quello. È per quello che ritengo che il fenomeno sia assolutamente agghiacciante. L'unica, sì, diciamo, forte consolazione, l'unico contrappeso è veramente la professionalità con le quali le istituzioni e lo Stato ha risposto. Sì. Perché chiaramente da una parte c'era la malavita che voleva sostituirsi allo Stato, dall'altra parte c'è stata una risposta, direi, forte, capillare, tempestiva dello Stato, che ha messo con 24 arresti e 56 denunce le situazioni sicuramente sotto controllo. Ecco, il punto è questo, sindaco. Vigevano non è esattamente New York, insomma, no? Sono 64.000 abitanti più o meno, 65.000, sì, esatto. O quant'è. È abbastanza strano che, come dire, che non aveste avuto percezione di quello che avveniva. Perché in effetti non si sono avuti dei fenomeni magari fortissimi, episodi diciamo gridati. Erano, diciamo, episodi più che altro, da quello che si capisce, abbastanza di sottobosco, perché quando magari gli incendi individuali, gli episodi individuali piccoli, magari non ti fanno percepire qualcosa di grosso. Sì. A differenza di in passato, quando ci sono state questioni. Anche perché di uno, tipo, diciamo, cioè, diciamolo, anche perché uno ha, come dire, a Vigevano non è che è abituato al fatto che ci sia un sistema di estorsioni propriamente. Assolutamente no, assolutamente no. Cioè, non è che questo sia una percezione comune. Il problema è che probabilmente c'è un insieme di episodi che solo ovviamente gli inquirenti, quindi chi ha la capacità di indagine, è riuscito a mettere assieme, a capire che c'era un'organizzazione in corso, e questo è diciamo il fatto sicuramente, sicuramente forte. Allora, qualcuno prima o poi la domanda la farà, non so se a lei, non so se a qualcun altro, qualcuno si interrogerà e qualcuno lo scriverà, quindi inizio io, così proviamo a dare, certo, la stura a tutto. Il fatto che si ispirassero a Gomorra, che cosa le dice? Ma sicuramente questo, beh, insomma, chi ha visto appunto quegli episodi fanno capire appunto come un'organizzazione che si dà delle regole, si dà delle... Perché, dico perché molto si è detto sull'impatto che ha Gomorra in termini non tanto di denuncia della criminalità quanto di modello, può, no? Può di essere un ispirazione. Modello di ispirazione, certo, assolutamente, perché quando vengono esplicitate in modo, diciamo, anche curato a livello televisivo, certe cose possono essere anche di spunto, per l'amor del cielo. Questo non è che sia un'accusa alla fiction, diciamo, alla fiction, per l'amor del cielo, anzi magari dà anche delle rilevazioni che servono anche al cittadino. Però, tutto sommato, sicuramente chi ha la mente perversa gli può essere anche sicuramente ad aiuto, un po' come quando uno guarda le serie di, non so, di CSI e, sì, capisce un po' tutti i trucchi della scientifica, certo, un po' questo. Un po' la comunque stessa cosa. Stiamo allerta, stiamo in guardia. Adesso forse un po' più tranquilli adesso. La ringrazio. Questo sicuramente faremo sicuramente delle benemerenze adesso a civiche che conferiremo sicuramente al alle capitano dei carabinieri, alle forze dell'ordine, alla procura, perché bene, è stata sicuramente una bellissima cosa. Grazie Andrea Sala, grazie, sindaco di Vigevano. Buona giornata. Oggi abbiamo parecchi amministratori locali, perché il prossimo punto sulla mappa intendiamo metterlo a Rimini. Andrea Agnassi ne è il sindaco e torna ai nostri microfoni. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a voi. Tra l'altro, lei era stato ospite nostro per parlare di quella ordinanza, no? Se non erro, quella sul ghiaccio, o mi ricordo male, quella sulla vendita, che non si potevano vendere bibite ghiacciate? Come sta andando, tra l'altro, quella roba là? Perché per evitare che la gente si sbronzasse troppo in alcune zone di Rimini avevate impedito di vendere le bibite ghiacciate. Come sta funzionando? No, le bibite... No, le bibite alcoliche, gli alcolici, esatto, ghiacciati, sì, certo. No, certo. Dato che abbiamo un sistema di servizi molto organizzato, con milioni di presenze turistiche, l'idea di provvedere con delle azioni a limitare l'abuso, in questo caso, di alcol, soprattutto magari per ragazzi, eccetera, ci ha portato ad un'ordinanza che non è che impedisce di bere fresco, anzi si beve, sì, fresco, però puoi anche bere al pomeriggio fresco che non sia qualcosa di alcolico, sì, quindi, insomma, rispetto anche a... Ma come sta andando l'applicazione dell'ordinanza? Sta andando bene, perché il fenomeno, come dire, è stato in qualche modo affrontato con dei risultati anche importanti. Mm. Bene, bene. Senta, sindaco, però noi l'abbiamo chiamata per un altro motivo, perché ce ne siamo occupati ieri, qualche ascoltatore tra l'altro ci ha scritto in merito a questo, ed è la vicenda degli scolmatori. In alcune zone dell'Adriatico, in un'ampia fascia in realtà dell'Adriatico, succede questo. E quando c'è una pioggia molto forte, gli scolmatori riversano l'acqua di fogna in mare. Insomma, c'è la cacca in mare, detta proprio in maniera brutale per farla capire bene agli ascoltatori. Abbiamo segnalato ieri il problema nella zona di Ancona, dove il presidente dell'associazione dei bagnini, la Palombina, ci ha raccontato che c'è un problema anche di verifiche, perché nel momento nel quale questo avviene si verifica se l'acqua è contaminata, ci si mettono 48 ore ad avere i risultati delle analisi e nel frattempo si chiude la spiaggia, dopodiché, dopo che arrivano i risultati delle analisi, tocca tenere chiuso ancora e le spiagge restano chiuse praticamente a tempo indefinito. Qualcuno ci ha scritto, ha detto: chiamate Gnassi, perché a Rimini stanno risolvendo il problema alla base, perché il problema che ci siamo posti noi è non è tanto i tempi delle analisi, ma quanto il fatto che questa roba si riversi in mare. Che cosa state facendo? Ma intanto una piccola premessa, perché parlare di Adriatico o di questo o quella località, allora diciamo la verità, un amministratore deve fare un po' come penso il chirurgo, no? Che quando ti presenti a una visita non è che ti può edulcorare il problema, no? Dandoti l'aspirina o raccontandoti una mezza verità. Il problema è che in Italia negli ultimi 60-70 anni ci si è dimenticati di tutelare, come dire, l'ambiente, il territorio, e ad ogni forte pioggia c'è un dissestro idrogeologico che fa franare colline, borghi, che riversa le acque reflue, quindi miste, bianche e scure, nei mari. Sì. Ed è un problema che va da Trieste, passando per la Puglia, risalendo per la Calabria e la Sicilia, arrivando alla Liguria. Vorrei ricordare, cioè, è un contesto italiano che è problematico. Certamente. Faccio questa premessa per dire anche cosa abbiamo fatto. Sì. Le regioni su 15 che si affacciano al mare sono in infrazione europea per gli scarichi a mare. 4 italiani su 10 non sono ancora allacciati a fognature o depuratori. Adesso non è che voglio fare sì. Poi andate a vedere dalla Sicilia, la Calabria, la Campania, la Lombardia, il Friuli. Solo 2 aree metropolitane, sì, quella fiorentina e quella torinese, delle 14, hanno raggiunto una depurazione del 100%. Quindi... Benissimo, ok, perfetto. Questa è la dovuta premessa. La mia premessa invece, sindaco, è di tenere la bocca vicina alla cornetta, per favore, e di restare fermo, perché se no la perdiamo e abbiamo dei salti di audio incredibili. Allora, ci dica che cosa state facendo. Allora, un attimo che provo a mettere a posto l'audio. Sì, meglio, prego. Ma intanto noi abbiamo fatto una pianificazione strategica, siamo andati a vedere le esperienze urbano-urbanistiche più avanzate che ci sono in Europa e abbiamo provato a immaginare una progettazione della città non sul breve periodo, tanto no, in Italia si fa tutto col consenso a breve, ogni 2 anni si vota, quindi sì, le cose, come dire, che non si vedono conviene magari non farle. Abbiamo deciso di investire solo nel comune di Rimini 160 milioni di euro per fare il sotto, cioè per investire sul sistema idrico fognario e non fare il sopra. Cioè abbiamo stoppato il cemento con varianti retroattive in diminuzione sulle previsioni dei piani regolatori vigenti. Sì. Quindi stop al sopra, e abbiamo cominciato ad investire nel più grande piano per la salvaguardia della balneazione, per chiudere tutti gli 11 spolmatori a mare che vengono aperti come in tutta Italia in casi di forti piogge. Sì. Oggi abbiamo 160 milioni di opere cantierate, ci sono 150 persone al lavoro ogni giorno dal 2013, sì, sono 11 interventi infrastrutturali e noi avremo 148 milioni di metri cubi al giorno di acque depurate. Sì. Mi dice sindaco, allora dobbiamo chiudere. Mi dice in quanto tempo contate di far smettere questa cosa qua, il riversamento degli scolmatori in mare? Ma intanto entro il 2016 noi abbiamo già con gli interventi fatti, che sono partiti già da un anno, sì, e mezzo, limitiamo lo sversamento del 50% alla fine del 2016 dei fattori inquinanti. Okay. Abbiamo un sistema di monitoraggio delle acque che non ha nessuno in Italia, per cui noi avvisiamo, ovviamente poi quando ci sono i temporali non è che si va a fare il bagno, abbiamo un meccanismo di segnalazione di divieto temporaneo di balneazione e monitoraggio delle acque, per cui le acque dell'Adriatico e le acque arime sono straordinariamente curate, monitorate e sono pulite. Sì. 2018-2019 noi saremo l'unico puntino in Italia che non mischierà neanche un'acqua bianca con un'acqua nera anche in caso di forti piogge. Benissimo. Cioè, abbiamo allora un intervento di medio breve, medio allora, periodo. Benissimo, non siamo riusciti a sistemare un granché l'audio, però terremo sotto controllo il cronoprogramma. La ringrazio, grazie Andrea Agnasi, sindaco di Rimini. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede in borsa tra un attimo, poi torneremo, il nostro giro per l'Italia proseguirà a Firenze, dove hanno detto alla fine no al McDonald's in Piazza Duomo, e tornerà da noi l'assessore per farci spiegare perché, e poi andremo in un paese della provincia di Venezia, anzi alle spalle di Venezia, 2800 abitanti, 600 migranti accolti. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: è stato fermato per omicidio con l'aggravante razziale, l'uomo che ha ucciso un richiedente asilo nigeriano a Fermo. Negli Stati Uniti torna alto lo scontro sulle violenze dei poliziotti nei confronti degli afroamericani, 2 vittime nelle ultime 48 ore. La Consob ha deciso di vietare le vendite allo scoperto sul Monte dei Paschi per i prossimi 3 mesi. Nuovo attentato questa mattina in Bangladesh, 2 agenti morti, attendibile la rivendicazione ISIS per l'attacco di Dhaka, dice il ministro Gentiloni. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo. Alla fine Firenze ha detto no al McDonald's in Piazza Duomo, una vicenda della quale ci siamo occupati, ne abbiamo parlato con l'amministrazione comunale, ne abbiamo parlato con la stessa azienda, ci ha parlato di un investimento da 10 milioni di euro e l'assunzione di 80 persone, ma appunto alla fine è arrivato il no. Torniamo a parlarne con Giovanni Bettarini, assessore allo sviluppo economico del Comune di Firenze. Buongiorno Bettarini, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Anzi, bentornato ai nostri microfoni anche a lei. Grazie. In realtà la decisione è una decisione che ha un sottofondo politico, perché il sindaco Nardella si era detto contrario, e però in realtà è stata presa da una commissione tecnica, no? Esatto, sì, una commissione tecnica composta da 3 dirigenti dell'amministrazione e 2 esterni, università e camera di commercio, che valutano i progetti in base a determinati requisiti e assegnano un punteggio. Sì, assegnano questo punteggio, i requisiti sono vari, tra cui alcuni aderenti a quell'ordinanza della quale avevamo già discusso, quella che prevedeva il regolamento che prevede il cibo, una percentuale piuttosto alta di cibo autoctono che deve essere venduto nei negozi del centro, autoctono intendiamo toscano in genere, una serie di prodotti tipici. In realtà McDonald's, Bettarini, ha aderito a molte delle vostre richieste, tra cui il fatto di fare il servizio al tavolo, che è una cosa inedita per un fast food. Sì, ora questa non è che fosse una nostra richiesta. McDonald's è venuta a presentare il progetto all'amministrazione. Abbiamo subito detto che per noi era necessario, ora si parla tra l'altro non solo di Firenze, si parla di Piazza Duomo a Firenze, vorrei ricordare questa cosa, perché questo aspetto qui è destinante. È evidente a tutti che su Piazza Duomo c'è una particolare sensibilità, come sarebbe in Piazza Duomo. E McDonald's ha chiesto una deroga a quel regolamento, perché evidentemente non è in grado di rispettare quelli che sono alcuni requisiti che non abbiamo posto, e il regolamento è stato valutato. Ovviamente noi abbiamo apprezzato, come dire, il fatto che una grande azienda come questa abbia modificato in parte sul progetto, però non l'ha ritenuto la commissione sufficientemente idoneo per il contesto in cui è, ribadisco, insomma, magari da un'altra parte, cioè, va bene. Lei dice vogliono aprire da un'altra parte, sono i benvenuti. Non temete che una cosa di questo genere, anche per quanto se ne è parlato fuori, possa avere un impatto su eventuali altri investimenti a Firenze? No, lei dice no, siamo Firenze, che no, ci frega a no. Noi. No, non sono così, no, ci mancherebbe, non sono così superficiale. Io dico una cosa, noi il senso di questa nostra operazione è quello di dire le città che hanno dei patrimoni così importanti devono essere messe in grado di governarli anche con scelte di questo tipo. Non è possibile pensare che in città patrimonio dell'UNESCO chiunque possa aprire, basta che abbia la disponibilità del locale. Noi ne vogliamo discutere. Questo è il principio. Sì. Tenendo questo, noi riteniamo che con la qualità della città si attraggano più investimenti. Qualche ascoltatore ci scrive, Bettarini, ma quanti kebab ci sono in centro a Firenze? Beh, ce ne sono. Regolamento l'abbiamo fatto ora, tanti. Il regolamento l'abbiamo fatto ora proprio per questo, perché noi la qualità si è andata un po' a picco. Siccome la qualità è a picco e i nostri cittadini ce lo dicono, noi la vogliamo difendere. Allora vogliamo entrare in campo, non ci voltiamo da un'altra parte. Guardiamo in faccia queste cose, siamo disposti al confronto. E il confronto non è facile, perché è evidente quando si parla di investimenti e di posti di lavoro, ci pensa bene. Però noi pensiamo che se poi il livello della città è alto, saranno anche più alti gli investimenti. Allora la ringrazio, grazie a Giovanni Bettarini, grazie. Assessore allo sviluppo economico del Comune di Firenze. Ora succede questo, che per nostra fortuna, perché anche questo è il bene di Radio 24, è così che ci manteniamo, è così che si pagano i nostri stipendi, abbiamo tanta pubblicità. Quindi adesso ci dobbiamo interrompere, dare la linea al traffico a Mario Platero. Abbiamo già in linea Alberto Panfilio, che è il sindaco di Cona, un paese alle spalle di Chioggia, di 2800 abitanti, e siamo nel veneziano, che appunto su 2800 abitanti deve accogliere in questo momento 600 immigrati. C'è stata anche una rissa l'altro giorno, la tensione è palpabile, però purtroppo non abbiamo il tempo di parlare con lui. Lo ringrazio, mi scuso con lui e gli dico ci sentiamo domani. Pausa.